Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. "No, say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack." "Wanna be Americano, Americano, Americano, but you were born in Italy. You try living alamona, but when you drink whiskey soda, all you do is sing off key. You dance the rock and roll, you play the baseball. Ma sono di Bechamel, chitarrita, la bassetta di mamma. You wanna be Americano, Americano, Americano, you were born in Italy. Don't you know this ain't New York City? Okay, Napoletana, you wanna be America, wanna be America." Ieri noi siamo stati appunto in Pennsylvania ad ascoltare Donald Trump. Ho avuto la fortuna di scambiarci un po' di parole. Lì vanno giù assolutamente dritti, eh. Ci siamo stretti la mano e poi ho ascoltato un'ora e mezza di parole vere rispetto alla Clinton, che invece è la portavoce degli interessi forti, dei soliti speculatori. "Salvini e Trump insieme, che figata. Sai, Giova, avrei voluto essere una mosca." "No, non per sentire cosa dicevano, solo per avere l'imbarazzo su chi posarmi." "Ciao." Beh, un po' forte ma non male, eh? Un po' forte ma non male. Crozza! "Ma sono di Bechamel, chitarrita, la bassetta di mamma. You wanna be Americano, Americano, Americano, you were born in Italy. Don't you know this ain't New York City? Okay, Napoletana, you wanna be America." Non è male sta versione, eh? Dove l'hai scovata, Lorenzo Nespoli? Non male, non male. Tra due ore anche qui Matteo Salvini sarà a questi microfoni in piena notte americana alle 2.40 in diretta. 2.20 per la verità di notte, 8.20 qui. Avremo Matteo Salvini che ci racconterà tra l'altro l'incontro con Donald Trump. Donald Trump. Allora, cari amici, buon mercoledì. Buon mercoledì a tutti. Hanno ieri presentato il rapporto Serva Salute. L'aspettativa di vita degli italiani cala. Per i nati nel 2015, i maschietti vivranno, l'aspettativa di vita si intende, ovviamente 80,1 anni, le femminucce 84,7. Sempre fortunate, eh. Sunto del quotidiano Libero: si muore prima, si va in pensione dopo. E buon mercoledì a tutti. "Ricordati che devi morire." "Com'è?" "Ricordati che devi morire." "Va bene, va bene." "Ricordati che devi morire." "Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare." E allora, uno apre anche il giorno, l'America avverte: attenzione, cellule dormienti dell'ISIS sono in Italia pronte a colpire. Buon mercoledì a tutti, cari amici, eccoci qua con 24 mattino, sono le 6:33, c'è Peter Bescapè in regia che apre subito il Parlamento perché devo salutare, ecco, adesso caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Ho fatto partire questa storia dei saluti qualche tempo fa adesso. Allora, devo salutare David Dalleva, che proprio dice: ti prego, salutami. Ecco David, va bene, eccoci qua. Poi saluto da Chicago Pietro. Oh, Pietro, non mi prendere in giro, eh. Guarda che mi arrabbio. Andrea dalla Autolaghi. Poi Federico da Modena. Buongiorno da Monte Carlo alla nostra solita Marie-Françoise, che ci ascolta da Monte Carlo. Mauro da Bologna. E poi, insomma, tanti altri ascoltatori. Saluto anche il super mega dir Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Stai passeggiando per Milano, caro Luca? No, non ancora. Ti ricordo che... Buongiorno. Sei eletto nostro inviato di fiducia, e quindi se devi fare quello che devi fare, uscire, camminare per Milano come i matti alle 6.30, fallo pure, Tra poco, va bene. Allora, Luca Dini, direttore di Vanity Fair, oggi il mercoledì abbiamo una nuova entrata, perché Paola Saluzzi ci sarà da mercoledì prossimo, oggi non poteva, e allora non come sostituta, ma perché è sempre spesso con noi, quando si degna di svegliarsi con noi, c'è la nostra Chiara Geloni. Buongiorno. Eccola là, appunto, oggi ha deciso di svegliarsi. È sempre un po' un dubbio quando ti chiamiamo e fissiamo l'appuntamento, dico chissà se... Ma mi fai fare la sostituta. No, ho detto. No. Vabbè, insomma, come stai, Chiara? Benissimo. Tutto bene? Tutto a posto? In campagna il tuo amato PD va tutto tranquillo? Ma anche altrove va tutto molto bene. Tutto molto bene. Ebbene sì, allora, guardate che oggi vi devo regalare due perle anche più avanti della Sant'Anché, eh? Sapete chi ha scritto il libro? Vabbè. Luca, dai, ha scritto il libro. Sì, sulla sua vita, la sua autobiografia. Sì, no, allora, visto che la chiedete a gran forza, ve la do subito, sì. Una perla della Sant'Anché, subito, dal pentalogo, vi giuro, dal pentalogo di Daniela Sant'Anché nel suo libro, Pentalogo, alle donne. Uno dei consigli, e soprattutto quindi Chiara mi rivolgo a te, non datela. Così? Così. Non c'è altro? Così. No, aspetta, non è finito, volevo fare una pausa drammatica. No, perché? Non datela, quando la date è finita, meglio l'attesa della presa. Punto. Adesso è finita. È perle di saggezza. Non l'ho mai sentita. Non l'hai mai sentita questa, caro direttore? No, perché dice nel momento, cioè è meglio, insomma, è la classica profumiera, ecco, insomma, no, no, la teoria della profumiera. Sì, si può brutalmente dire così. E Chiara Geloni, dai, facci un commento da donna. Tu pensavi di venire qui a parlare del PD, di politica, dai, su. Ma no. Questo è un buon consiglio, insomma, un po' anche un consiglio che tipo della nonna, no? Ecco, cioè... ecco, esatto, lo sapevo che... È come quando tu mi telefoni per invitarmi alle 6 di mattina, io a volte dico sì, ma altre volte dico no, perché poi così... Perché così... cresce l'attesa. Esatto. È un po' così, quando Chiara Geloni la chiami, dice, tre volte ti dice no, e tu... E allora dico, Lorenzo Nespoli, riproviamo, richiamiamola per la quarta volta. Hai capito? È un po'... È così, si cresce. Nella considerazione è così, altrui è così. Però effettivamente, caro direttore, è un po' il consiglio classico, insomma, le donne non è che la possono subito, no? Infatti dice: ho fatto l'amore con 5 persone in vita mia, Daniela Sant'Anché. Più o meno adesso non... Ma come più o meno? No, più o meno, cioè, dice, è vero che diceva al massimo con 5 uomini. Caro direttore, puoi dire quello che vuoi a quest'ora del giorno. Perché tu con quanti pensavi che... Io non pensavo. Io per principio non pensavo. Però non lo so. Luca, questo è il consiglio che dà la Sant'Anché. Non datela. C'è anche... non ci sono più le mezze stagioni. No, non ci sono più le mezze stagioni. No. Comunque, insomma, che dobbiamo fare? Questo è dal pentalogo, non mi fermo qui. Ne sentivamo la mancanza. Sì, un pochino sì. Comunque, nella sua biografia. Va bene. La carta costa. No. Infatti è già qui per la carta costa, è già pronto. La pagina del giorno è già pronta, lì ritagliata. Per la parte finale della rassegna stampa. Comunque, non buttatevi via, ragazze mie. Questo è il titolo, il consiglio della nonna di Daniela Santanchè. Allora, riannodiamo un po' i fili. Dicevamo, cara Chiara, in campagna tutto a posto, cioè si è autosospeso perché è indagato per associazione esterna alla mafia, una cusina così, il presidente del PD della campagna. Che facciamo, Chiara? Attendiamo le sentenze? Certo. Sì. Questo, per condannare qualcuno bisogna attendere le sentenze. Per decidere che sia opportuna la sospensione da un incarico, meglio non aspettare. Quindi mi sembra che sia giusto decidere come ha deciso Graziano e come penso il partito gli abbia chiesto di fare. Il problema è che quando succedono queste cose, purtroppo ormai il danno è fatto. Il danno è fatto. Però, allora, io chiedo una cosa, e per carità, siamo tutti garantisti, anche Luca Dini sono sicuro è garantista, però leggiamo sul Corriere della Sera, è stato intercettato ed è stato pedinato mentre incontrava l'uomo vicino a un boss dei casalesi. Ora, caro Luca, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare le sentenze, come dice Renzi, dobbiamo fare come dice Davigo, e quindi la politica dovrebbe fare pulizia, perché la politica sa chi dei propri uomini è in qualche modo non proprio pulito. Come ci si deve comportare? Ma come diceva giustamente Chiara, c'è un tempo della giustizia e c'è un tempo dell'opportunità politica che è diverso. Quindi no, non possiamo sempre aspettare le sentenze. Detto questo, bisogna stare molto attenti, perché sennò questo paese diventa un paese dove basta un sospetto per far fuori una persona e il sospetto diventa strumentale. Io ho molta paura di questa cosa, devo dire, perché purtroppo in Italia, come dicevamo l'altro giorno, l'avviso di garanzia, che una volta era una cosa che andava a vantaggio e giustamente era uno strumento a favore di chi doveva riceverlo, ormai è diventato un capo d'accusa, uno strumento politico per far fuori una persona. Questo è molto molto pericoloso, perché bisognerebbe semplicemente guardare i libri, guardare le sentenze, e non è che tutti, come si dice, sono stati salvati dalla prescrizione o da altre cose. A volte sono stati salvati dalla verità, perché ci sono molti sospetti che non erano in realtà supportati dalla realtà. Ecco, bisogna ricordare che sì, ci sono molti casi se no diventiamo veramente la Repubblica della delazione. Ho molta paura. Però guardate che ancora oggi un magistrato, Marco Travaglio, per il terzo giorno o quarto giorno più o meno consecutivo, parte con un'intervista a due pagine a un magistrato, questa volta Roberto Scarpinato. Io ho commentato su Twitter: ma dove è finito il vecchio fatto, caro vecchio fatto quotidiano di Antonio Padellaro? Vabbè, polemica chiusa. Vabbè, ognuno fa il giornale che vuole, però insomma il direttore adesso è Travaglio, e viva Travaglio. Scarpinato ancora dice: ci vogliono contro la corruzione come leggi speciali, come contro la mafia, gli agenti sotto copertura, agenti infiltrati che si fingono imprenditori e ti danno la finta mazzetta o vera mazzetta, e se tu accetti, cara Chiara Geloni, zac, beccato. Adesso poi questo non è un caso di corruzione, questo è diverso. Però la questione c'è. Luca, che volevi aggiungere? Scusate. No, per carità, giustamente, come dice Chiara, questo è un caso diverso, è giustissimo, di opportunità politica, e qui non c'è niente da dire, però in generale io ho un po' paura. Hai un po' paura. Oltretutto vorrei ricordare che i magistrati sono parte dell'apparato pubblico. Mm. Ah beh, certo, quindi sono bizzarro che tutto il mondo, cioè tutto l'apparato pubblico in Italia sia corrotto tranne loro. E non senti mai un magistrato parlare male di un altro magistrato, a me questo sa molto di... No. Ti insospettisce un po', ti fa insospettire. Più di un po'. Cara Chiara, qua lo scontro politica magistratura, tu sei cresciuta a pane e scontro politica magistratura, sì, no? Più o meno. Vabbè, come molti della nostra età, diciamo. Appunto. No, adesso io penso, dico una cosa, sul piano della comunicazione che molto sta a cuore, giustamente, al PD, al Presidente del Consiglio. Non so se sia stato saggio infilarsi in uno scontro, in un nuovo scontro, appunto, anni 90 quasi, tra politica e magistratura, perché sì. credo, poi posso sbagliare, ma penso che il risalto che ha oggi questa vicenda di Graziano e che ha avuto ieri nei telegiornali sia molto amplificato dalla tensione delle giornate precedenti. Beh, oddio, la notizia è seria e grave, però tu dici, però, giustamente, casca fagiolo. Si tratta di un consigliere regionale, non di un ministro, no? Voglio dire, senza togliere niente, ma insomma, non è che il presidente del PD in campagna, ma perché sappiamo chi è il presidente del PD in qualche altra regione. Ma malapena i segretari. Non è un incarico, ecco, appunto. Quindi voglio dire, credo che questa tensione abbia dato un fatto da cassa di risonanza. Quindi se qualcuno pensava, non lo so se questo, però da qualche parte l'ho letto, se qualcuno pensava di prevenire iniziative della magistratura, di contrastarle con una tattica aggressiva, secondo me quello è un errore. Del resto i magistrati applicano le leggi. Ora io penso che si possano criticare tutti gli eccessi, tutti i tentativi di generalizzare. Sì. Io sono sempre stata tra chi, appunto, in questa guerra che descrivevi, cercava di dire che non è vero, che i politici sono tutti corrotti, di scegliere qualcuno di cui fidarsi e di sostenere che ci si poteva fidare. Però è anche vero che i politici applicano delle leggi, i magistrati applicano delle leggi, le leggi le fa la politica, quindi bisogna cercare di collaborare, non di farsi la guerra, di considerarsi dei contropoteri uno armati. Sì, questo è vero. Intanto che dire, per esempio il 5 Stelle dell'Orco sulla campagna del PD la vede così. Quello che è avvenuto oggi in campagna è veramente incredibile. Prima c'è stato l'arresto dell'ex sindaco di Casavatore, sostenuto al Partito Democratico, e oggi dalle carte risulterebbe che il presidente, cioè Graziano del PD Campano, sarebbe addirittura referente politico del clan dei Casalesi. Per noi tutto questo è inaccettabile, queste persone si devono immediatamente dimettere. Si devono dimettere, vabbè, questo è un gran classico. Si devono dimettere. Si è dimesso dall'incarico di partito. Sì, infatti, tra l'altro si è autosospeso. Comunque dobbiamo andare al traffico. Voi pensate di essere sfuggiti del tutto da Daniela Santanchè, ma io dove mi giro la ritrovo. Apro una pagina del giornale, tra l'altro questa è singolare, insomma, una pagina del giornale con un'intera pagina di anticipazione della biografia di Daniela Santanchè, proprio sul giornale di Alessandro Sallusti, con cui... qua Luca Dini magari qualcosa ci potrà dire, perché secondo me lui qualcosa sa. È uno dei cinque. Lascio perdere le battute che mi arrivano via WhatsApp, tra cui ma cinque tutti insieme. No! Fermi! Fermatevi lì! È il traffico! Fermatevi! Traffico! A Milan! Io voglio sentire il traffico! Il traffico! Gli scudetti della Juve, 34 per la Juve, 32 per la Questura. Evviva Davigo che ama l'Italia. Ciao Lino, non è che la Pascale, dopo i grandi consigli su Forza Italia e sulle amministrative a Roma, abbia dato consigli anche come gestire il nostro Milan? Non è una critica al Milan, ma solo un incitamento all'allenatore. Blocchi. Alessandro Milan, Quella canzone è bella, ciao, datela in faccia. Viva Mussolini tutta la vita. Voi gatto comunisti avete distrutto questo paese, schifosi. Alessandro Milan, ora ci mancava Lombroso. Ma io capisco che al mattino sei sempre di fretta, ma allo specchio ti sei mai visto con quella faccia da triglia che ti ritrovi? Ma che ti mettiamo nella pentola adesso? Va bene, sempre l'amore degli ascoltatori è la cosa che mi nutre di più al mattino, caro Luca Dini, vedi, vedi, ci sono anche i cretini ancora che pensano a Mussolini, e va bene, siamo con Luca Dini, e vabbè, insomma, noi accettiamo tutti, capisci? Ma lo sappiamo, l'Italia è così. E tra l'altro, ieri appunto ho messo la canzone dei Modena City Ramblers per due giorni consecutivi di Bella Ciao, anzi la mettiamo anche oggi, e ieri ho ricevuto la mail, ecco, quelle mail che ti inebriano di gioia, cioè veramente, vi giuro, ma ha scritto l'ex cantante dei Modena City Ramblers che dice: ti ascolto tutti i giorni, che bello, di solito mi sveglio con la tua voce, oggi mi sono svegliato con la mia voce su Radio 24. Vai, posso dire che adoro i Modena City Ramblers. Oh, facciamola risentire, dai, Bella Ciao, perché è per il terzo giorno. E ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via con Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao. Ma facciamo sentire soprattutto all'ascoltatore che non si è firmato. Che... Non è una, tra l'altro non è una canzone di partito, ricordiamo. Ma no, ma è una canzone di tutti, è una canzone dell'Italia. Mamma mia, ma dobbiamo stare ancora a spiegare queste cose. Ah, oh, mamma mia, tempo perso. Lassi in montagna. Ma dicevamo, Daniela Santanchè, eravamo rimasti a Daniela Santanchè. Daniela Santanchè, oggi una pagina sul giornale: ho fatto la cameriera nei bar, infilavo collanine di perla, e fui tra le prime dog sitter, cara Chiara, segna nel curriculum, tu non so se hai fatto queste cose. Poi non riuscivo a dormire sempre con i cinque perché non riuscivo a dormire da sola prendendo sonno per mesi, avevo un timore panico, non lo so. E poi ho scoperto di essere di destra in università a Torino. Tu quando hai scoperto di essere di sinistra, cara Chiara? Non penso di esserlo sempre un po' stata. Sei nata certamente, così, sì. No, poi visto che abbiamo ricordato anche il ventennale in questi giorni, effettivamente la nascita dell'Ulivo fu una tappa abbastanza importante. Qui finalmente, diciamo, anche una cattolica di sinistra aveva un partito di sinistra, ma non troppo lontano dalla sua storia, dove poteva riconoscersi. Quindi io in quel momento lì stavo facendo l'università, mi stavo trasferendo a Roma, sì. E proprio la sera della vittoria dell'Ulivo, il 21 aprile del 96, io ero nella mia casina di Roma insieme ad altre ragazze. E hai detto solo di sinistra. E insomma sì, quello fu un periodo piuttosto decisivo. Questo sì. No, nella biografia che scriveremo, cara Chiara, ecco, quando scriverò la mia vita. Però io, adesso venendo alle cose, con quanti uomini... No, perché adesso veniamo alle cose, con quanti uomini... Sempre uno alla volta. Sì, va bene, ma non dovevi neanche rispondere a questa becera domanda, però ecco la Santanchè, allora ve la faccio anche ascoltare, è il giorno della Santanchè, esce la biografia. Perché da un po' di anni che coltivo l'orto, qua come vede ci sono i pomodori, ci sono le carote, c'è il sedano, le puntarelle, le tutti puntarelle. I tipi di insalata. Aspetti che non vedo bene. Qua ci sono le zucchine. Ottimo. Come vede che sono tante, sì, poi l'orto ma prosegue. Chi gliel'ha piantato quest'orto? No, questo faccio tutto da sola, e sì, guai chi tocca quest'orto. Ah. Al limite mi può solo aiutare Alessandro, nessun altro. Non sono io, non sono io, Luca, non sono io, ti giuro. Credo si riferisse ad Alessandro Sallusti. Dai, ultime news, Luca. No, ma tu lo sai, dai. Ma che cosa? Tra lei e la Sallusti non sai niente, va bene. Allora invece vedo la copertina di Vanity Fair qui in edicola, è un omaggio a un altro grande che se n'è andato, ragazzi, dopo David Bowie. Questa solo, Luca Dini, non so, ti ha ispirato a mettere la testata viola, purple anzi, per Prince. Ma è stato davvero un grande, sai che io non lo seguivo, non lo ammiravo, non è uno di quelli, eh? In cosa è stato un grande? È un grandissimo, un genio della musica, secondo me sì, assolutamente. È veramente una scomparsa paragonabile a quella di David Bowie, secondo me. Sì. Prince. Eccolo qui con tanti altri servizi ovviamente, ma insomma la copertina dedicata a lui, Prince, che è scomparso all'età di quanto? Quanto aveva? 58? 57 anni. 57 anni. E vabbè, cara Chiara, ti lasciamo così. Lo ascoltavi Prince? È uno dei cantanti? Non veramente tantissimo. No, però ovviamente... Anche io penso che fosse un grande della musica. Ah no, ma questo sì, questo sicuramente. Però sì, io semplicemente non rientrava nei miei canoni, nei miei gusti. Ma su questo non si discute. Allora vi devo lasciare abbracciandovi Chiara Geloni, compra subito la biografia. Vai, ma guarda poi. È una simpatica Daniela. Ma guarda che io ne sono certo di questo. E saluto il direttore di Vanity Fair con Prince in edicola, il nuovo numero, e vi lasciamo alle note di Poppering. Uno, due, tre. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci! Noi, la tosse, i moscerini, le zanzare. Qui a 24 mattino c'è Lorenzo Nespoli, redazione, Peter Bescapè, regia. Come sempre siamo pronti per la rassegna stampa. Oggi avremo ospite Matteo Salvini, che dagli Stati Uniti in piena notte ci racconterà com'è andata con Donald Trump, tra l'altro. E poi avremo ospite anche Alfio Marchini, che è candidato sindaco a Roma, a capire che succede nel centrodestra, anche se Marchini dice io non sono nel centrodestra, sono fuori dai partiti, ma insomma... un po' un casino c'è. Allora, andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo qui in questo mercoledì 27 aprile con i titoli. Il Sole 24 Ore apre sulle borse, Europa in rialzo, Milano spinge le banche. Questo è il titolo di apertura, dunque la giornata sulle borse. Poi la vicenda del presidente del PD Campania, Stefano Graziano, che è accusato di associazione esterna alla Camorra, e beh, è l'apertura per molti quotidiani. Corriere della Sera, voti e Camorra, bufera sul PD. Repubblica, il presidente PD in Campania indagato per Camorra e voti. Libero, gli affari del PD con Gomorra. Il Fatto Quotidiano, Campania indagato il leader PD, voti per favori ai boss casalesi. Per il Giornale, il consulente di Renzi indagato per Camorra. La Stampa invece apre sulla Bundesbank all'attacco, l'Italia ha violato i patti. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre Avvenire rilancia la campagna a favore di Asia Bibi, cristiana in carcere da 2500 giorni in Pakistan perché accusata di blasfemia. Aprite quella cella. Questo è il titolo appello di Avvenire. Allora, voi magari state andando a lavorare. Se non state andando a lavorare o se non avete un lavoro, magari siete in pensione. Magari ci andrete tra poco a lavorare dopo le vostre interminabili colazioni, dopo aver accompagnato i bimbi a scuola, avete uno stipendio tutti se avete un lavoro, e allora vi dico, ma ve lo dico non perché voi iniziate la giornata con un pizzico di acidità nello stomaco, non bisogna vivere queste cose con acidità nello stomaco, invidia, rabbia, no. Consapevolezza. Eccolo qui, Ettore Livini racconta su Repubblica gli stipendi dei primi top manager italiani, i primi 15, volete saperli? Ci sono certo bonus milionari, buone uscite d'oro, premi alla carriera, pioggia di azioni, omaggio, ma di fatto, eccoli qui, indovinate chi è il più pagato dai top manager italiani? È Sergio Marchionne. Sergio Marchionne, 54,5 milioni l'anno, in pratica 150 mila euro al giorno. Peter, cosa c'è? Vorresti scambiare per 3 giorni? Basterebbero 3 giorni per sistemarti per un po'. 54 milioni e mezzo. Al secondo posto Adil Medoub Khan, cioè di Luxottica, 13 milioni e mezzo. Al terzo posto Giovanni Battista Ferrario, Italcementi, 11 milioni e 100 mila euro. Poi Carlo Pesenti, sempre di Italcementi, 10 milioni e 4. Pietro Salini, 8 milioni e 8. E così avanti. Sono i primi 15 top manager, ai primi 10 oltre 5 milioni, i primi 10 sono quotati oltre 5 milioni. Trovate la classifica su Repubblica a pagina, prima pagina dell'economia. Non c'è la pagina, la prima pagina dell'economia, no, non c'è veramente, non è stampata né avanti né retro, e quindi non posso dirvi la pagina. Comunque sfogliate Repubblica, lo trovate. Mentre, cari automobilisti, magari siete al volante prima di andare a lavorare o mentre state andando a lavorare, sappiate che, racconta la stampa in prima pagina, ci sono dei cosiddetti giudici ammazzamulte. Sono giudici di pace che in pratica annullano tutte le multe che gli capitano sotto mano per ricorsi. Succede a Mondovì, però non in tutta Italia, a Mondovì, provincia di Cuneo, dove c'è il pool più amato dagli automobilisti. Sono i giudici ammazzamulte. La stampa, con Chiara Viglietti, ne racconta la storia. Inizia tutto dal ricorso di un avvocato torinese, Massimo Tribolo, multato per eccesso di velocità sulla Torino-Savona. Fa ricorso perché dice che gli autovelox non tarati sono inaffidabili in base a una sentenza della Corte Costituzionale, e i giudici gli danno ragione, e non solo danno ragione a lui, ma danno ragione a tutti coloro che fanno ricorso se le amministrazioni pubbliche non dimostrano che, nello specifico la prefettura di Cuneo, che gli autovelox siano stati tarati. E siccome finora la taratura certificata e va dimostrata non è arrivata, tutti i ricorsi che abbiamo discusso non sono state presentate certificazioni di taratura degli autovelox, e perciò, per quanto ci riguarda, i tutor non sono tarati e risultano dunque incostituzionali. Da qui la scelta di accettare i ricorsi di tutti i cittadini. Avete preso una multa sulla Mondovì Torino, sulla Torino Savona? Fate ricorso a Mondovì, perché mi sa che ci scappa l'annullamento della multa. Questo almeno racconta la stampa, a meno che non provino che siano tarati gli autovelox. Oh, cari italiani, invece da Mondovì saltiamo a Milano, dove uno dei candidati, Beppe Sala, è alle prese con una polemica da un po' di tempo per avere omesso per una dimenticanza, dice lui, di avere dichiarato di avere una casa in Svizzera. Che cosa ha fatto Sala dopo le polemiche, gli appelli a condividere la sua dichiarazione dei redditi? Lo ha fatto, ha pubblicato sul sito internet la dichiarazione dei redditi, e però magliene incolse, perché raccontano sia Libero che Il Fatto Quotidiano che questo rischia di trasformarsi in un piccolo autogol. Sala, ecco tutti i redditi, affari anche in Romania, è il titolo del Fatto Quotidiano, mentre Libero è un po' più urticante, perché dice: altra amnesia di Mister Expo, nasconde le quote all'estero, cioè ha pubblicato finalmente il suo 730, ma oltre alla casa vicino a San Moritz si scopre ora che non ha dichiarato alcuni investimenti in Romania, alcune quotazioni di società. Il Fatto Quotidiano scrive: una partecipazione al capitale di una società per 2.948 e una più consistente partita di 1.123.892 euro dichiarati come altra attività estera di natura finanziaria. Secondo Libero si è dimenticato, o comunque non ha pubblicato, soprattutto la partecipazione da 2.948 euro, dall'entourage di Sala si trincerano dietro a un no comment. Comunque, insomma, pubblica il 7.30 dicendo così placo le polemiche e ne ha alimentate altre per alcuni soldi in Romania, scrivono Libero e Il Fatto Quotidiano. Che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire? Oh, mi ha colpito questa. È uscito un libro e La Stampa ne parla. Questo libro si intitola Non ci credo, ma è vero. Giuseppe Salvaggiulo racconta, pagina 7, l'autore è Alfonso Celotto, docente universitario di diritto costituzionale che a lungo è stato negli staff di diversi ministeri, e racconta un po' in qualche modo il decalogo del perfetto burocrate, quello che cerca di mettere sempre dei bastoni nelle ruote del buon funzionamento dello Stato. Carte nascoste, riunioni fiume, la resistenza passiva dei burocrati. Voi pensate, beh, la burocrazia, mamma mia, ci mette sempre i bastoni tra le ruote, ci impedisce di... Ebbene, qua c'è proprio il manuale di come, racconta il professor Alfonso Celotto, utilizzando lo pseudonimo, tra l'altro, di Ciro Amendola, direttore della Gazzetta Ufficiale. Racconta proprio quali sono le strategie utilizzate dal perfetto burocrate per rallentare, ostacolare, rendere tutto più complicato. Le volete sapere quali sono queste regole? Le carte a posto, chiedere sempre un parere in più e mai un parere in meno, seguire le procedure infischiandosene dell'interesse pubblico, primo. Secondo, va tutto scritto in burocratese stretto, a proprio favore, per evitare di dover svolgere compiti faticosi. Poi, tre, copiare è sempre un'ottima soluzione. Chi copia non sbaglia mai e non si assume responsabilità. Quattro, non fare, nel dubbio astenersi dal prendere decisioni impegnative, esercitare l'arte del rinvio. 5. Se sei in difficoltà, convoca una riunione. Subito. Questo non vale solo per la burocrazia, eh? A patto però che ci siano almeno 10 partecipanti, perché sennò rischia di diventare una riunione decisiva. E invece se si è più di 10, sicuramente si litiga. Poi 6. Le pratiche più difficili, sotto la luce dell'opinione pubblica, apparentemente vanno risolte con priorità. Ma apparentemente, in realtà, si fanno da sole. 7. L'archivio deve essere ordinato, ma non per le carte più importanti, in modo che non siano rintracciabili da chiunque. Beh, ma ragazzi, mi monta già una rabbia condita alle risate. Poi 8. No, non regalare mai il tempo. Fai sempre conto su malattie, cure specialistiche, riposi compensativi, permessi sindacali, donazioni del sangue. Utilizza tutto. Infine 9. La lettura dei giornali durante la pausa, social network, caffè, tempo di uscita, non derogare mai ai ritmi della giornata perfetta. Questo è il manuale del perfetto burocrate, secondo il libro Non ci credo, ma è vero, di cui parla oggi La Stampa. Evviva! Dai, siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata. L'articolo da Mani sul volante lo racconta Libero con Sandro Iacometti a pagina 15. Io questa veramente non ci volevo credere. A proposito di burocrazia, Roma capitale dei condoni mai pagati, ma non è tanto il titolo su Roma. A proposito di burocrazia, volete sapere, vi ricordate i condoni, i tanti condoni che si sono succeduti qui in Italia? Uno per esempio era il condono dell'epoca Berlusconi, per cui si potevano presentare domande entro il 2003, anno dell'ultima sanatoria varata in Italia. Sono state presentate 15,4 milioni di domande di sanatoria. E sappiate, dal 2003 sono passati 13 anni. Di queste 15 milioni di domande, 5 milioni e mezzo, cioè un terzo, sono ancora da lavorare. Così, sono lì. Voi le avete presentate 13 anni fa. E si potrebbe discutere della sanatoria, bla bla bla bla, ma non è questo il tema. Le avete presentate? 5 milioni e mezzo di domande non sono ancora state prese in mano. Sono lì, non sono ancora state lavorate. Sono lì. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il broccone dell'informazione. E vabbè, io lo dicevo da mesi, non chiamiamo e non mettiamo brocchi al Milan perché poi avremmo dato la stura a tutto ciò e va bene, ma va bene, l'importante è anche volersi fare del male ogni tanto nella vita, c'è sempre tempo per rimediare, quindi via Bacca, via Donnarumma, via i problemi del Milan, via Bonaventura, teniamo brocchi, teniamo Balotelli ed è tutto fatto. Allora, mi piace questa analisi molto molto veloce della situazione rossonera. Allora, andiamo in Campania, dove molti quotidiani aprono con la vicenda che riguarda Stefano Graziano, 45 anni, di Aversa, in provincia di Caserta, ingegnere, eletto alla Camera per il PD nel 2008, dal 2014 è presidente del PD in Campania, è anche ora consigliere regionale, sempre in Campania. E il sospetto su di lui è molto grave: avere agevolato il clan dei Casalesi in cambio di voti. Per questo il Dem Stefano Graziano, come racconta Monica Guerzoni a pagina 8 del Corriere della Sera, si è dimesso, si è sospeso dall'incarico, è indagato dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli nell'ambito di inchiesta su appalti truccati a Santa Maria Capua Vetere e con grande sofferenza si è autosospeso da partito in carico. Ai giudici ha detto di volere chiarire al più presto la totale estraneità a qualsiasi vicenda illecita. L'accusa però per lui è grave, è quello di essere il punto di riferimento del clan dei Casalesi, fazione Zagaria. E tra l'altro racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 9, sempre del Corriere, che è stato pedinato in campagna elettorale mentre incontra l'affiliato al clan che chiede favori. È stato intercettato mentre lo ringrazia dopo le elezioni. Per questo Stefano Graziano è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. C'è anche un'intercettazione in cui uno degli uomini che tenevano considerati vicini rapporti con Graziano, che tenevano i rapporti con Graziano, dice al telefono: io tengo per il PD, il voto tengo per i democratici, e il politico ringraziò l'affiliato. Ora, per carità, queste intercettazioni, tra l'altro, come sempre, molto confuse. Quando parlano al telefono, questa gente parla con delle frasi che se io parlassi con qualsiasi persona al telefono così, non si capirebbe niente. Leggete stralci di intercettazioni. Sentite qua, due che parlano. Devo mettere a lavorare a questo. Ho perso già una fatica e adesso già stanno lavorando. L'altro: io dovevo fare la riunione e poi andare via. Ma tu non ci stare troppo, rimaniamo sempre quelli che siamo. Quello Pasquale ha detto: io ho fatto il passaggio. Pasquale, sei capace di metterti addosso, addosso. Ma che minchia vuol dire? Cioè, io non capisco. Cioè, ripeto, si vede che al telefono si parla sempre in semicodice o con parole che, se utilizzassi io, mi manderebbero un TSO immediato, almeno il mio interlocutore. Comunque, sta di fatto che le intercettazioni racconterebbero questo. Renzi si chiude nel silenzio assoluto. Come racconta La Stampa, Fabio Martini, a pagina 5, irritato, anzi molto irritato. Così raccontano di aver visto Renzi non appena il Presidente del Consiglio ha preso dell'accusa poco gratificante precipitata sul presidente del PD campano. E da quel momento riserbo assoluto, si sarebbe detto negli anni 50. Non ha risposto, non ha scritto un tweet, non ha fatto un'intervista, non ha cliccato a Matteo risponde. Da Palazzo Chigi non filtrano neanche le versioni ufficiose, il famoso Renzi ai suoi, virgolettati più o meno apocrifi. Silenzio totale. Danno per Renzi molto irritato, anche perché non poteva capitare nel momento peggiore, scrive Martini, questa vicenda nel pieno della querela con la magistratura, soprattutto ad appena 40 giorni da elezioni amministrative molto complicate. Certo, non aiuta anche l'intervista di Rosaria Capacchione, senatrice PD, giornalista anticamorra da sempre, cronista eletta in Senato, che oggi sempre alla Stampa dice: io non mi ricandiderò perché il Premier ascolta solo chi porta voti. La cronista eletta in Senato dice: nel PD ci sono persone buone per tutte le stagioni. Insomma, anche Rosaria Capacchione si iscrive al partito ben nutrito dei delusi della politica, della società civile che vanno in politica e rimangono molto molto delusi. La linea, secondo Goffredo De Marchis, in questo silenzio totale che c'è all'interno di Palazzo Chigi, forse è questa: Graziano, cioè questo segretario, questo presidente del PD in campagna, non l'abbiamo inventato noi, non fa parte del giglio magico. Ecco, questa potrebbe essere l'unica strategia difensiva nell'imbarazzo di questa vicenda. Vicenda che cala appunto nel momento in cui c'è sempre la polemica Davigo magistratura. Per la verità, Davigo politica, per la verità, oggi Davigo, racconta Liana Milella, Salto su Repubblica, pagina 4, verrà processato, tra virgolette, dall'ANM, cioè dal sindacato dei magistrati che lui presiede. L'ANM striglia Davigo, in giunta si processano le ultime dichiarazioni, basta con gli eccessi. Oggi nel vertice dell'associazione ci sarà anche una vera e propria resa dei conti dopo lo scontro di questi giorni e qualcuno chiederà a Davigo conto anche delle dichiarazioni, delle interviste molto dure, chiedendogli insomma anche un passo indietro e di non essere così duro. A proposito di questo, però, Marco Travaglio insiste, direttore del Fatto Quotidiano, ormai trasformato in un giornale che ogni giorno ascolta il magistrato di turno, anche oggi due pagine, pagina 2 e 3 di intervista a Roberto Scarpinato, in questo caso procuratore aggiunto di Palermo, due paginone giganti che sintetizzo così. Di fatto Roberto Scarpinato dice: sulla corruzione ci vorrebbero le leggi utilizzate per combattere la mafia. Basterebbe adottare lo stesso regime normale delle intercettazioni previsto per i reati di mafia. Bisognerebbe introdurre la figura dell'infiltrato, l'agente sotto copertura, come dice Davigo, no? Cioè la gente che va a darti la mazzetta e poi zac, ti arresta se tu l'accetti. Bisognerebbe inserire reati contro la pubblica amministrazione nello speciale elenco previsto dall'articolo 157 del codice penale, che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per alcuni reati di particolare gravità. Insomma, dice Scarpinato, se fossi al governo prenderei finalmente atto che oggi la corruzione è una forma di criminalità organizzata e un'autentica emergenza nazionale. Già, però i magistrati non fanno il governo. Allora, caro Mauro Meazza, buongiorno, ti devo salutare con un cadeau, con un cadeau. Il grande di Meazza è il Milan, che sto mestele de quinta sei ball alla mattina. Vabbè, quanti le vence c'è la gazzetta e se la picchiano in del buoni buoni buoni buffa il tacchino. Eccoci qua, Mauro Meazza, ciao. Ringraziamo senz'altro questo ascoltatore anche per la riscoperta del folk. Sì, e sì, peraltro canzone memorabile, L'inquilino di Iannacci con Cocchi e Renato. Come no? Questo, senti, non vorrei che però tutto ciò ti distraesse dal lettore della Gazzetta, che so che ti addolora di questi tempi. Basta, di questi anni. Ti distraesse dalla lettura del Sole 24 Ore di oggi, perché con il Sole 24 Ore di oggi, te l'ho già detto ieri e te lo ripeto, oggi ci sono 80, diconsi 80 pagine di inserto speciale per il tuo 7:30, non solo il tuo, quello di tutti. Certo. Una guida in 80 pagine per capire cosa bisogna farci con questo 7:30, che sai che è precompilato. Sì. È precompilato, però bisogna capire quali dati sono dentro e quali no, ad esempio, e te lo spiega questa guida. È con il Sole 24 Ore. Non aspettarmi al bar, vai in edicola a prenderlo. Ma me l'hanno portato ieri in anticipo, la nostra Elettra dall'ufficio stampa. Bravo, straordinario. Me ne compiaccio. Oh, poi ti ha scritto l'INPS? Non ancora, ma controllerò a casa. Forse. Se ti scrivesse, comunque, conserva gelosamente la pagina di oggi del Sole 24 Ore. No, conserva gelosamente la pagina di oggi del Sole 24 Ore, la pagina 5, dove ti illustriamo come si legge questa busta arancione, che ci sta scritto quali previsioni vengono fatte. Non mi pare dalla lettura di questa pagina che si facciano previsioni anche sul futuro allenatore del Milan. Ma è vero che sulla busta c'è scritto pianifica il tuo futuro? Guarda, è tutto scritto qua, ce lo spiegano passo a passo devi pianificare il tuo futuro, nel senso che loro fanno delle stime su quella che potrebbe essere la tua pensione. Vabbè, ma se uno c'è scritto pianifica il tuo futuro e apri e dice c'hai 300 euro di pensione, non ti viene un po' da smuccolare? Bisognerà mettere da parte qualche cosa, caro Alessandro. Intanto ti voglio dire, pianifichiamo anche noi il nostro futuro, sappi che il decreto banche, sai che devono fare un decreto legge banche, quello oggi, no? Oggi. No, non siamo precipitosi, venerdì. Si parla di venerdì, di fianco alla pagina busta arancione, in pagina 4 trovi tutti i punti su cui si sta lavorando, tra l'altro potrebbero anche congelare la Tobin Tax sulle transazioni finanziarie, un'imposta recente che però come gettito non ha mai brillato. Sì, tra l'altro mi spiace per l'ascoltatrice che ci aveva fatto un appello, ritardate Meazza che sono in fila, non sono ancora alla metro, ma Meazza in punto arriva quando è Meazza in punto. L'orario è un po' come il Natale, insomma, quando arriva. Senti, ti voglio segnalare rapidissimamente solo due cose. L'una è che l'export per i paesi non UE, non dell'Unione, è andato maluccio a marzo. Aia. Questo infatti non è una bella notizia, trovi tutti i particolari nelle pagine di Impresa e Territori. E poi, su norme e tributi, che tu come sempre leggerai religiosamente, sappi che illustriamo gli ultimi chiarimenti sulla vicenda del canone RAI. Allora, lì c'è per capire se ad esempio la coppia è di fatto, cioè non c'è un coniugio, come bisogna regolarsi con il pagamento di questo canone RAI bolletta. È tutto scritto su norme e tributi, leggi religiosamente. E per sbuffi, ma perché non lo vuoi pagare il canone? No, è che sta diventando veramente un tormentone questo canone RAI. Io l'ho pagato sempre e continuerò a farlo. Sì, vabbè, dicono tutti così. No, io l'ho sempre pagato. Comunque, no, devo mettere online. A proposito, ho messo online invece su Twitter il disegno di Domenico Rosa sulla busta arancione, che io oggi trovo geniale. Traffico! Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, alle 7:49 minuti, ma per carità, no, non so tutto io, anzi, so nulla. Cari ascoltatori, a proposito di pensioni, oggi parla il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Tommaso Nannicini, che ha il dossier pensioni in mano. Lo fa con il Messaggero, intervistato da Alberto Gentili. Pensioni, tre soluzioni per l'uscita anticipata. Intanto Nannicini dice: da qui fino al 2018, fine legislatura, il governo interverrà per sostenere le pensioni più basse. È ancora presto però per indicare la formulazione tecnica. Dunque dice lo faremo, ma non spiega come. Poi sulle pensioni, flessibilità in uscita, capitolo delicato. Stiamo ragionando su come farlo, dice Nannicini. Il problema è che un intervento di questo tipo costa tra i 5 e i 7 miliardi. Lo Stato infatti deve anticipare la pensione a chi va prima, poi recupera una parte di questi soldi con una penalizzazione, ma per la finanza pubblica c'è un costo di cassa per i primi 10-15 anni molto elevato. State esplorando strade meno costose? Chiede il Messaggero. L'unico modo per scendere sotto queste cifre è trovare una soluzione tecnica che non cambi nulla per il pensionato che chiede l'anticipo all'INPS, ma in forza della quale una parte dell'anticipo viene intermediata dal sistema finanziario. Qui si fa avanti evidentemente in maniera un po' criptica l'ipotesi del prestito delle banche. Faccio un esempio, ci sono tre categorie. La prima è quella delle persone che hanno una preferenza ad andare in pensione prima, come la nonna dipendente pubblica che vuole accudire i nipoti. La seconda è quella di chi ha necessità di andare in pensione anticipatamente, perché ha perso il lavoro e non ha i requisiti di uscita. La terza categoria sono i lavoratori che l'azienda vuol mandare in pensione prima. Ebbene, si potrebbe provare a creare un mercato di anticipi pensionistici che oggi non c'è, coinvolgendo governo, INPS, banche, assicurazioni. E questa è l'ipotesi di Nannicini, ovviamente un po' tutta ancora fumosa, ma anticipata sul Messaggero. Ci sono notizie invece importanti dall'estero. Vi segnalo il Corriere della Sera, intervista Hofer. Chi è Hofer? È quello, Norbert Hofer, del Partito della Libertà, FPÖ, che potrebbe diventare presidente austriaco, a due passi dall'Italia, tema migranti molto caldo, considerato di destra, qualcuno dice di estrema destra, Comunque, lui dice, intervistato dal Corriere della Sera, da Elena Tebano, a pagina 3, sono consapevole che non sia facile gestire la questione migranti. Quando ero giovane soldato sono stato di guardia al confine esterno di Schengen. Se l'Italia non ce la fa da sola, con le coste a sud, rafforziamo Frontex, diamo gli uomini necessari, ma senza la messa in sicurezza diventa impossibile aprire i confini interni all'Europa. E poi dice, bisogna comunque fermare l'ondata di migranti. Sull'accordo di Dublino, che significa che i paesi al confine dell'Unione Europea devono farsi carico di più profughi, dice, tutti sapevano cosa c'era scritto. Gli italiani avrebbero potuto rifiutarsi di sottoscriverlo. Se l'hanno sottoscritto, ora devono mantenerlo. Così parla il possibile nuovo presidente austriaco. Vedremo al ballottaggio. Per quel che riguarda l'Egitto, invece, la vicenda dell'omicidio Giulio Regeni, c'è una novità. Ahmed Abdallah, che è il consulente della famiglia in Egitto, è stato fermato e accusato di terrorismo. Avete capito l'Egitto come risponde in maniera molto, molto pacata. Tra l'altro viene intervistata anche la conduttrice televisiva Rania Yassin, viene intervistata dal Corriere della Sera, pagina 16, che ha detto «Vada al diavolo, Regeni». In realtà ora lei, insomma, modifica un po' la situazione dicendo «Ma no, sono stata fraintesa, io intendevo dire vada al diavolo il caso». Regeni, rispetto Giulio da vivo o da morto, non sto parlando di questo, ma di una cospirazione contro l'Egitto. Ora abbiamo l'embargo economico perché i media europei scrivono che all'Egitto il caso non importa. Insomma, ho detto vada al diavolo il caso, non vada al diavolo lui. In realtà il Corriere della Sera con Farid Adli e Viviana Mazza la intervista e diciamo sbobinando l'intervento di questa conduttrice dice proprio ha detto vada al diavolo, vada all'inferno, poi si è corretta dicendo insomma qualcosa di diverso, ma l'esclamazione vada all'inferno c'è stata. Vabbè, siamo in chiusura, qua siamo in chiusura, ci sono tanti articoli che vorrei leggere, ma siamo in chiusura, siamo alla carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali oggi trionfa la Santanchè, Santanchè ovunque, le anticipazioni della biografia con un'intervista al giorno, la Santanchè al giorno. Sentite cosa dice intervistata da Piero Degli Antoni. Il mio pentalogo, i miei consigli, 5 consigli alle donne. Uno di questi, non datela! Donne, non datela! Quando la date è finita. Meglio l'attesa della presa. E poi c'è la domanda clou. Senta, ma non posso non chiederglielo. La presunta liaison tra lei e il principe Dimitri d'Asburgo che avrebbe posto fine alla sua relazione con Alessandro Sallusti. Momento di grande attesa. E Daniela Santanchè risponde: leggete il libro e saprete. Ma chi se ne frega!